America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Altro fine settimana complicato in America sul fronte delle tensioni razziali dopo gli incidenti e le incriminazioni di Baltimora. Due uomini sono stati uccisi ieri sera dalla polizia vicino a Dallas per aver sparato e per aver ferito una guardia privata a una manifestazione, diciamo poco intelligente, un concorso per la miglior caricatura di Maometto. La decisione per il concorso era stata presa subito dopo l'attacco a Charlie Hebdo a Parigi dalla American Freedom Defense Initiative, una organizzazione che si definisce per la libertà di espressione, ma che nasconde un movimento di estrema destra guidato da una donna chiamata Pamela Geller. Dico, come gli viene in mente di fare una cosa di questo genere, anti-islamica per definizione, quando ci sono tensioni così elevate? Ci furono subito proteste, già allora, per questo insulto programmato a Maometto. Fatto sta che i due che protestavano ieri, protestavano devo dire in modo inaccettabile perché non si va poi a sparare con le pistole, sono poi stati uccisi. E poi a New York sabato in prima serata un poliziotto in borghese è stato ferito gravemente, in questo caso da un afroamericano. La città è stata travolta da una vera e propria caccia all'uomo. In effetti, pensate, proprio intorno alle 6:30 al momento del crimine mi trovavo sulla Northern Parkway a Queens diretto verso Brooklyn, poi ho preso Jamaica, poi Atlantic Avenue e ho visto passare prima un'auto civetta, poi due in direzione opposta, tutte con sirene spiegate, luci rosse e blu accese, e poi altre tre, poi altre quattro, tutte che andavano a rotta di collo. Era chiaro che era successo qualcosa e poi ho saputo dell'incidente e della caccia all'uomo. Sentiamo. We are following breaking news and a disturbing story tonight. A New York City police officer shot tonight in Queens. This is what we know right now. The officer is in critical but stable condition at Jamaica Hospital. Ecco, cosa è successo? Sabato pomeriggio una pattuglia di polizia su un'auto civetta, quindi un'auto, diciamo, in borghese che non aveva le insegne della polizia, era andata in missione per cercare di controllare una situazione che secondo alcuni dispacci poteva essere pericolosa. Si trovano davanti a un uomo che mette la mano vicino alla cintura. Qui ci sono versioni discordanti perché qualcuno dice che l'uomo ha avvicinato la macchina della polizia e poi all'improvviso ha tirato fuori la pistola e ha sparato. Altri dicono che invece i poliziotti si sono avvicinati a lui ed era tra l'altro un pregiudicato, era qualcuno che loro conoscevano, e a quel punto questa persona, un afroamericano, ha tirato fuori la pistola e ha sparato e ha colpito uno degli agenti, Brian Moore, 25 anni, pensate, appena 25 anni, un colpo prima al torace e poi un colpo alla testa, e il colpo alla testa che poteva essere quello più pericoloso, in realtà è passato da una parte all'altra del cranio risparmiando il cervello del poliziotto, per cui è in condizioni critiche in ospedale, però sembra che sia stabile. Moore era in pattuglia con Eric Jansen, in genere sono sempre due i poliziotti, e si trovano a Queens all'angolo della 212esima strada e la 104esima Avenue. Sentiamo il sindaco. It's an unconscionable act of violence, not just against one police officer, but against the city of New York, against the values we hold dear. Ecco, Di Blasio, l'ennesimo singolo dell'ennesima città americana. Certo, New York è molto più grande di Baltimora e soprattutto è molto più grande di Ferguson, ma è lo stesso, c'è il sindaco di una città, il rappresentante di una comunità che deve parlare, come ha fatto quando l'avete sentito, di un atto irresponsabile, di un atteggiamento di violenza. Ma qual è la vera svolta? La vera svolta è che ci troviamo, come vi dicevo già la settimana scorsa, in un momento di grande transizione in America, in una crisi, come ha detto Barack Obama, è una crisi che andrà affrontata e che andrà in qualche modo risolta, ma che continua a svilupparsi mostrando sfaccettature ogni volta nuove, ogni volta preoccupanti. Come accennavo in apertura, uno degli sviluppi più importanti che c'è stato sul piano storico, vorrei dire, è stato quello che è successo a Baltimora con l'arresto e l'incriminazione dei sei poliziotti sospettati di aver ucciso Freddie Gray. Sentiamo. Ecco, questi erano i manifestanti a Baltimora che invece di protestare facevano delle dimostrazioni di approvazione. Di approvazione perché? Perché contro ogni previsione e contrariamente a quello che è successo in passato, il procuratore del Maryland, 35enne Marilyn Mosby, una ragazza afroamericana, dico ragazza perché 35 anni è molto giovane, ha deciso di ridurre enormemente i tempi e di arrestare e incriminare i sei poliziotti. Il caso è interessante perché la Mosby è una donna afroamericana, figlia tra l'altro di un poliziotto, è la prima donna nella sua famiglia ad essersi laureata e ha deciso di dedicarsi allo studio della legge e poi di perseguire una carriera di procuratore dopo aver assistito all'uccisione di un cugino di 17 anni che era rimasto coinvolto in una sparatoria durante una rapina. Quindi devo dire un aspetto drammatico sotto ogni punto di vista, grandi emozioni da parte di tutti quelli coinvolti in questa situazione. Ma il caso ricostruito dalla Mosley è molto semplice: i sei poliziotti hanno commesso delle illegalità e hanno ucciso di fatto una persona, dunque sono da ritenersi colpevoli di omicidio colposo. Non ci sono gli stessi capi d'accusa per tutti, anzi il capo d'accusa più grave è nei confronti del poliziotto che guidava, che era un poliziotto nero, era un afroamericano. Tre dei sei infatti sono afroamericani, dunque la Mosley in questo modo dimostra di essere stata assolutamente imparziale, non se la prende solo con dei poliziotti bianchi, ma se la prende con una forza della polizia che ha abusato del proprio potere. Ecco, e a questo punto si è scatenato un dibattito in America. È una svolta, ce la farà, non ce la farà? I giornali, dal New York Times al Washington Post al Wall Street Journal, hanno pubblicato articoli in continuazione in questo weekend, se ne è parlato ieri mattina, negli show della domenica mattina, nei talk show della domenica mattina. La cosa è molto incerta, perché in passato i poliziotti sono stati poi sempre rilasciati, perché c'è un cavillo, bisogna dimostrare che hanno agito nel modo in cui hanno agito con l'intenzione di uccidere. Un paese però, devo dire, l'America, che queste situazioni le affronta nel pieno delle contraddizioni, dei drammi, del dolore che spesso caratterizzano alcuni di questi crimini, e cerca sempre di guardare in avanti. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci, eccoci alla canzone del giorno. Direi, con quello che è successo, con queste tensioni razziali, mi è venuta in mente una canzone di cui proprio sul New York Times Joe Nocera ci dava notizia qualche giorno fa, e cioè di un grande diplomatico per l'America, Louis Armstrong, il grande musicista, che si trovò a portare la cultura americana e a svolgere un'opera di diplomazia negli anni della Guerra Fredda, negli anni 60, a Berlino. E proprio a Berlino Louis Armstrong si trovò appena pochi giorni dopo gli incidenti di Selma, e gli chiesero i berlinesi dell'Est, attenzione a Berlino dell'Est, dunque controllata dal regime comunista, gli chiesero: insomma, ma cosa è successo? Come ti senti? E Louis Armstrong decise di non affrontare l'argomento, perché quando ci si trova in viaggio all'estero prevale su tutto l'unità. Però poi, in concerto, come dire, provocato dalla curiosità, dalle domande di queste persone, fece una canzone straordinaria e la interpretò in modo molto più lento, molto più sentito, molto più drammatico di quanto non avesse mai fatto in passato. Una canzone, tra l'altro, che non aveva suonato per 10 anni. La canzone si chiama Black and Blue, e a un certo punto le parole nel testo dicono: beh, sono black and blue, sono nero e sono livido, e la mia unica colpa è quella di avere la pelle nera. Louis Armstrong, Black and Blue, nella registrazione originale a Berlino negli anni 60. Cold empty bed, springs on his leg, feel like old men, wished I was dead. What did I do to be so black and blue? The mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do? Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.